proposito di gentleman, c'è già Fergal pronto per Southside, eh? Sono proprio un gentleman io, mi hai visto entrare in quella porta dove c'era scritto gentleman, no? Sì, quella porta era la tua lettera veramente, Alex. No, vabbè, volevo fare un complimento a Fergal, ho fatto una gaffa, va bene, ci riproverò domani. Allora, domani ritorniamo a partire dalle 16 dopo Enzo Martino ed Amore DJ, il disco live. Ringraziamo Roberto Bottone che ha curato la parte tecnica, tra pochissimo, come già annunciato, Southside con Fergal, e chiaramente ringraziamo anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri appuntamenti che tornano comunque domani pomeriggio. Salutiamo anche Pino Esposito, ciao! Dopo il notiziario, welcome to the future. Southside. Everybody, and you're very welcome to Southside. Questo martedì pomeriggio. My name is Fergal Kavanagh. Al controlli tecnici c'è Roberto Bottone. Ringrazio ad Alex e Raul che ci hanno accompagnato nelle ultime paio di ore. Allora stiamo per ascoltare il nuovo di Prince, uscito soltanto in internet. L'album si intitola The Rainbow Children e questo pezzo si intitola The Work. Every time I watch a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avresti voluto sempre ascoltare. Suicide. That's Cosheen with Slip and Slide Suicide. E la cantante di nome Sian Evans abitava su una montagna gallese dentro una tenda e è andato a Bristol a trovare la musica. Il successo Tahiti 80 with Heartbeat. It's not much for you. Won't you forgive me? That's all I can do. Can you feel my heartbeat when I'm close to you? Settimana con TV Sorrisi e Canzoni trovi giochi, l'unico mensile di enigmistica che ti fa vincere favolosi premi con i suoi 11 concorsi. E da questo mese giochi è tutto nuovo, con più pagine, più cruciverba, più premi e più divertimento. Questa settimana giochi con Sorrisi a sole 3.500 lire e in regalo le carte Trepido e la penna per giocare. Yes, yes. Sì? Pronto? Concorso Digital Gusto Amorositas? Con che? Ma lo sa che ore sono? Sì, è l'una di notte e so anche cosa si vince. Ogni giorno t-shirt, lettori DVD ed MP3 e con l'estrazione finale tante fotocamere digitali. Insomma, ho vinto! Vinto un corno! Sveglia! Il numero giusto è 02 44 88 6 88 6 oppure vai sul sito www.morositas.it. Concorso Digital Gusto Amorositas. Digiti giusto, vinci di gusto! Pronto? Concorso... Ancora? Out me! Yes, yes. No, no, no. Dai ragazzi che metto il film. Ci siamo? Uffa, vado io. Per una serata ancora più croccante partecipa al grande concorso Blockbuster Pringles. Aggiungi un tubo di Pringles al tuo noleggio e puoi vincere subito un TV Color al plasma, tre lettori DVD e centinaia di noleggi gratuiti. Blockbuster. When the night... Blockbuster, sempre più film, sempre più copie. Make it a blockbuster night. Admin Rick. Yes, yes. Matteo, 45 anni, artigiano. Una piccola falegnameria e un conto corrente appena fatto a pezzi. Meno male che quello nuovo è fatto a regola d'arte. In un anno 100.000 piccoli imprenditori hanno scelto Imprendo, il conto tutto compreso a costo fisso. Con Imprendo hai operazioni illimitate, tanti vantaggi e servizi per la famiglia e i dipendenti. Imprendo lo trovi solo nelle banche del gruppo Unicredito Italiano. Informati 800 881177 www.imprendo.it. Automin Rick scade il 31/12/2001. È uscito Top Girl di maggio, ce lo presenta una vera lettrice, Isabella di Novara. Vai Isa! I Luna Pop a ruota libera in esclusiva per le Top Girl. Moda, il ritorno dello stile grigio e delle gonne anni 50. Bellissimi, quello che dicono di noi quando non sentiamo. E in più con Top Girl un mega regalo, il pendolino magico che risponde su amore, amici e fortuna. Top Girl, l'unica rivista ufficiale per le Top Girls, e ne edicola sole 4.500 lire. Top Girl, Top You! Brava! Posso tenermi la rivista? Yes. Ha mandato il fax! Devo ripetere sempre le stesse cose! Quanto zucchero ha messo nel caffè? Uno! Uno solo! Sempre le stesse cose! Sempre! Se non hai il coraggio di chiudergli la bocca, mandagli un messaggio. Blue ti regala 50 sms al mese, non cumulabili per i mesi di maggio, giugno e luglio, se ricarichi la tua SIM Blue Home dal 10 al 30 aprile. Osa di più! Scrivi! E dove sono le puntine? Ah! Blue, il futuro che non c'era. La più grande musica è solo su Rockstar. Il nuovo disco di Vasco Rossi, il ritorno di Bruce Springsteen, la svolta dei Depeche Mode, l'ironia degli Aerosmith, i Daft Punk e i JJ72. Ancora su Rockstar, la crisi dei trentenni, secondo Stefano Accorsi e Fabio Volo. Rockstar ti aspetta in edicola. Here we are again. Outside the loudest, the most powerful. Magazine, that's Zoot Woman on Southside on Radio Kiss Kiss. Yeah, you're listening to Fergal Kavanagh. Abbiamo al controls Roberto Bottone e saremo insieme fino alle ore 18. Allora, se mi volete contattare, il mio indirizzo email è fergal@kisskissnetwork.it. Scrivetemi, ragazzi, a richiedere un brano che volete sentire on Southside. Prima di Zoot Woman avete sentito i News con il loro nuovo singolo Plug In Baby. E praticamente Plug In Baby viene dall'album che ne stanno preparando, escerà tra poco. Loro saranno in Italia a fare un tour dal 26 aprile in poi. E adesso un altro gruppo che vorrei vedere in concerto, chissà se verranno in Italia. This is Clint Eastwood from Gorillaz. I'm happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Essence the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Hey, è un po' più lento del solito versione che suoniamo su Southside, però è molto bello, rilassante. Questi sono i Gorillaz con la cantante Damon Albarn e c'è anche James Hewitt che disegna Tank Girl. Allora siamo arrivati alla storia della musica che è successo in questo giorno, il 17 aprile. Torniamo nel 1980 e troviamo Bob Marley che ha fatto un concerto per Independence Day in Zimbabwe. Southside. Southside. Carriere che c'ha Moby, ormai può dire che ha fatto un album bellissimo con tanti brani che sono stati utilizzati per commerciali, per soundtracks, che ha riregistrato questo brano con Gwen Stefani del No Doubt. E poi può anche dire che noi di Radio Kiss Kiss abbiamo scelto questo pezzo per il tema del nostro programma. La Micra Glamour, deliziosa, è un piacere guidarla, così trendy negli interni, così in vista nei colori, così contenuta nei consumi. La Micra Glamour è una sensazione da provare a lungo, e da oggi su tutta la Micra il climatizzatore è incluso nel prezzo, se non avete un'auto da rottamare. Ma se al fresco non vi interessa e volete rottamare la vostra vecchia auto, la Micra è vostra, tenetevi forte, da 16.200.000 lira. Che interni, che colori, che fresco, nuova Micra Glamour, chiedi a chi una Micra ce l'ha già. Adesso il progetto solista di Leroy Thornhill si intitola Amazing of Fright Punk. Long face, the color blue, great day, what to do? Black looks, you feel the gloom, red blush across the room. Step out of bed every day, step out of bed every day. Anyway, it's your salvation I'm craving. I often wonder if I'm worth saving. I often wonder if I'm trapped in a dream. The jubilee set me free. You're amazing, life-saving. Anything you need, just name it. You're amazing, life-saving. What's mine is yours, just take it. Tired eyes up all night, can't face the early light. Cold hangs by the door to walk through, what a bore. Step out of bed every day, every day. It's your salvation I'm craving. I often wonder if I'm worth saving. I often wonder if I'm trapped in a dream. But you at least reset me free. You're amazing, life-saving. Anything you need, just name it. You're amazing, life-saving. What's mine is yours, just take it. You're amazing, life-saving. Anything you need, just name it. You're amazing, life-saving. What's mine is yours, just take it. Time is gone, the day is done. Got to get away, Mr. Sun. Dark comes to numb my brain. Let the clock begin again. It's your salvation I'm craving. I often wonder if I'm worth saving. I often wonder if I'm trapped in a dream. You release me, set me free. You're amazing, life-saving. Per un'ora Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Southside. Southside. Here we go. That's Grand Popo Football Club e il brano si intitola Each Finger Has an Attitude, cioè ogni dito ha un'attitudine, che vuol dire non lo so, perché non prendiamo una pausa a riflettarci un po'. Spot time. Questo che radiocomunicato è? Audio 2. È particolare. Beh, anche la 2. Audi A2 in alluminio, out of the ordinary. Venite a provarla dai concessionari Audi. tesoro, ti piace il mio regalo? Oh, beh, sì, sì. Oh, scusami. Sì? Tutto ciò che posso offrirti è questo. Quello che abbiamo ora, solo questo. Autumn in New York. Richard Gere, Winona Ryder nella più romantica storia d'amore dell'anno. Oggi a noleggio da Blockbuster. Porta a casa l'emozione del grande cinema. È bellissimo! When the night... Blockbuster. Sempre più film, sempre più copie. Make it a Blockbuster night. Kiss, kiss. E tu? Quanto original sei? Io faccio rafting con la tavola da snowboard. Di più? Vuoi diventare maxi original? Se non mi spacco le ossa. Vieni da McDonald's e gustati un bel Mac menu maxi. Ma... avrai un fantastico bicchiere Coca-Cola Originals con solo 2000 lire in più. Mitico, mi faccio una collezione e non mi bagno. Solo fino al 20 maggio, dopo torni in acqua. Oppure? Oppure? Gli original sono tanti, cerca il catalogo e raccogli punti anche da McDonald's. Outwin Rick nei ristoranti che aderiscono fino ad esaurimento scorte. Kiss, kiss. Sono la boy band del momento e sono tutti nudi. I Velvet, come non li hai mai visti, li trovi solo su Kiss Me di aprile. Inoltre, le migliori tecniche di bacio e il test del sesso. Corri in edicola, Kiss Me ti aspetta. Puoi vincere anche i biglietti per il concerto di Dido. Kiss, kiss. Un legame chimico tra l'atomo di idrogeno e... Che mal di testa. Moment 200. Il mal di testa ti passa in un momento. E il mal di testa? Passato. È un medicinale a base di ibuprofene a controindicazioni ed effetti collaterali. Leggere il foglio illustrativo. Non somministrare sotto i 12 anni. Kiss, kiss. È uscito Top Girl di maggio. Ce lo presenta una vera lettrice, Isabella di Novara. Vai, Isa! Make-up, trucco luminoso per un viso splendente. Super sondaggio, la prima volta nei racconti delle Top Girl. Russell Crowe, il gladiatore, scende nell'arena del rock. E in più con Top Girl un mega regalo. Il pendolino magico che risponde su amore, amici e fortuna. Top Girl, l'unica rivista ufficiale per le Top Girls. E ne dicono sole 4.500 lire. Top Girl, top you! A te è piaciuto il gladiatore? Il film o lui? Kiss, kiss. Pronto? Ciao, vuoi vincere un'emozione bollente con me? Allora, giochiamo al gran quizzone della colazione. Dimmi, qual è il famoso frollino tutto tondo, coi buchi? One, two, seven! Pensaci bene, è friabile, ha un gusto unico. One, two, seven! Mi dispiace, il tempo è scaduto. Gran Turchese! Gran Turchese, ce n'è uno. Come lui, non c'è nessuno. E vai! Kiss, kiss. Superdino viene dal passato per cambiare il futuro. Invia un SMS dal tuo cellulare Omnitel contenente G.M al numero breve 2216. Entrerai nel mondo e play SMS di Omnitel e sarai divorato dal divertimento. Southside. Southside. Southside. Southside. Just hold on to me. PJ Harvey on Southside. Allora PJ Harvey non vedrà A Place Called Home, cioè il posto nominato casa, per un bel po', perché sta in America a fare la spalla agli U2, e lei ha detto che è molto molto contenta della reazione che sta avendo dai fan degli U2. Infatti lei pure ha aiutato al tour di Zoo TV, li ho visto a Glasgow io, è proprio bella insieme agli U2. E questi sono i Coldplay with Trouble. Notizie a proposito di loro: allora, sono stati confermati per un importantissimo festival inglese insieme ai Red Hot Chili Peppers, quindi è un concerto di non perdere quest'estate. E poi sono anche stati nominati per the Ivor Novello Awards, cioè per i cantautori, il che vuol dire che sono stati veramente riconosciuti per, come i cantanti e cantautrice di classe. Oh, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. A new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. Yeah. out of my window, pulling back on some, watching breezes the wind blow. Wanna get near it, close enough to hear it, close enough to fear it, close enough to say. That's Everlast and I Can't Move on Southside. Everlast ha fatto un bel recovery dopo il suo incidente l'anno scorso. Questo invece sono The Ark. It Takes a Fool to Remain Safe. Che ci ha tutti quanti a ballare qua. Ci sono io e c'è Roberto Buttone che sta ballando e c'è Pina Esposito accanto a me che ballerebbe se non fosse il stampatello, vero? Come si dice? Non stampatello. Stampelle. Stampello, ups. Allora questo voglio dedicare a Natale e tutti gli abitanti di Delia Nuova. Grazie per il vostro messaggio. Ragazzi, io me ne vado a quest'ora. Ci vediamo domani, ci sentiamo alle ore 18. This is Fergal Kavanagh saying tune in to Southside tomorrow. Grazie di averci ascoltato. Southside. Southside. Per un'ora Fergal si proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19. Aggiornamento delle ultime notizie. New.